Hey there, fellas. You know that 9 out of 10 ladies prefer the athletic man? Why stay on the sidelines when the new Sport Boost line of plasmids can turn you into the jock you always wanted to be? Come and visit us at the MedFast for a free 2-hour trial. You'll appreciate the difference. She will too. A rapture reminder. Wanting an item from the service is forgivable. Buying or smuggling one into rapture is not. Stay on the level and out of trouble. What's the matter, Frank? It's this thinning hair, Jim. Every day there's less and less. You know, the problem's not in your hair. It's in your jeans. Hey, I don't go in for all that splicing stuff. My buddy says it's not safe. Shows you what your buddy knows. Go over to Genetic Horizons for a trial of fresh hair. Fresh hair is not only gives you a full head of thick hair, but it's 100% safe. Full head of hair? And 100% safe? Maybe it's time for me to get a little fresh hair. A rapture reminder. The bottom of the ocean is our home, but it can also be a dangerous place. Any leak is a bad leak. Report any unexplained water promptly to the Central Council. Ho passato la mattinata a parlare con la scienziata Crook. È emotivamente segnata, certo, come tutti gli ebrei scampati ai campi di concentramento. Ma non è pazza. Mi farà guadagnare tanto di quel grano da far sembrare Ryan un miserabile. Le servono solo dei rifornimenti per mettere in moto la macchina. E un amico che le guardi le spalle. Fontaine sapeva dell'arrivo dei nostri. Ci hanno fregato. Quei ricombinanti sono usciti urlando da ogni parte. Vomitavano fuoco, sputavano ghiaccio. Erano demoni usciti dalla Bibbia. Mai vista una roba del genere. Quello non stava mettendo su un business, ma un esercito. Mr. Ryan, io ci credo in Raptor, ma non significa che vinciamo sempre. La Fontaine Futuristics è la cosa che cresce di più a Raptor. Quindi lasci che le parli chiaro. Quando arrestiamo quell'osco di Fontaine per furto e contrabbando, bisogna chiarire che non toccheremo i suoi interessi d'affari. Sediamo nel consiglio perché quei poveri scemi si fidano di noi, non perché Dio ci ha dato un posto. La brava gente di Rapture non ha firmato per vedere noi del governo chiudere negozi, ucciderne i proprietari, neanche con i furfanti come Fontaine. Ma se l'è voluta lui. Invece di abbozzare, si è ficcato in testa di morire combattendo. Ma chi crede di essere, John Wayne? Possiamo venirne a capo, sì. Ecco cosa facciamo. Troviamo il testamento di Fontaine e facciamo che ciò che era suo finisca dove doveva e non nelle tasche di noi che l'abbiamo mandato sottoterra. Ci mancava questa. Sembra che ci sia una falla anche nel nostro sistema idrico. Già, proprio così. Il sistema di irrigazione dell'Arcadia sta pescando acqua salata. Avevo detto a Mr. Ryan, quando stavamo costruendo quel posto, che o si strutturava come una vasca da bagno o sarebbe diventato una fogna. No, McDonagh, ha detto, non stiamo costruendo vasche da bagno, stiamo costruendo l'Eden. Ho conosciuto Ryan il giorno in cui io e i ragazzi stavamo installando l'impianto dei sanitari nella sua lussuosa abitazione di Park Avenue. Poi mi dice, che cos'è tutto quell'ottone? L'impresario mi aveva convinto a usare lo stagno. Beh, gli faccio, immagino allora che sarà l'impresario che verrà a sgorgarle il water ogni 2 settimane, giusto? Se è il prezzo che la preoccupa, pago io la differenza per l'ottone, quindi stia sereno. E perché dovrebbe farlo, mi dice? Beh, Mr. Ryan, profitto o no, nessuno spala merda dai gabinetti costruiti da Bill McDonagh. Il giorno dopo ero il nuovo impresario di Ryan. Rapture sta cambiando, ma Ryan non si accorge dei lupi nei boschi. Quel Fontaine è un lestofante, è un vero ladro, ma ha l'Adam, e questo lo rende il capo. Reinveste tutti i profitti in plasmidi sempre più potenti e nella costruzione degli ostelli Fontaine, o meglio, i centri di reclutamento Fontaine. Prima che qualcuno se ne accorga, quello avrà un esercito di ricombinanti e noi ci ritroveremo in grossissimi casini. Oggi abbiamo visto la nostra Masha. Abbiamo faticato a riconoscerla. E lei ha detto, Sam, sei matto, gli ho detto, quella cosa, quella è la nostra Masha. Aveva ragione. Stava estraendo sangue da un cadavere vicino alle Fontaine Fisheries. E quando ha finito, si è allontanata mano nella mano con uno di quei disgustosi golem. Masha! Ha urlato Sam. Ma io non sono riuscita a dire niente. Perché Sam si sbagliava. Quella cosa non era la nostra Masha. Cara Masha, non sappiamo cosa ti sia successo. Gli uomini di Ryan ti hanno portata via dicendo che eri necessaria per la salvezza di Rapture. Ma come fa una bambina a salvare una città? Ma vedo quelle ragazzine sbucare da quei condotti. Spero solo che un giorno tu possa sbucare da questo e trovare questo appunto. Ti cerchiamo, ma se puoi, raggiungici al Fighting McDonald, stanza 7. Il codice d'entrata è 7533. Ci manchi, tesoro. L'irlandese mi ha proposto un accordo. Io gli do Fontaine e me ne vado di qui. Semplice. Come faccio a sapere che quel grasso bastardo non è un uomo di Fontaine? Come faccio a sapere che non sono tutti uomini di Fontaine? Fontaine ha l'Adam e tutti lo vogliono. Ryan è solo chiacchiere e bei vestiti. Anche qui sotto, qualunque idiota riesce a capire da che parte tira il vento. Va bene, ecco il codice. 9332. Usalo sulla tua cella se vuoi. Ma ricordati che una volta uscito da lì, appartieni a Fontaine. Stai passando da una prigione a un'altra. Ah, fa come vuoi. Ma non illuderti, pensando di aver ottenuto chissà quale libertà. Fontaine ce la sta mettendo nel culo due volte. Si è trattenuto l'80% della nostra parte, minacciando di denunciarci a Ryan se non ci stava bene. Figlio di puttana. Se MG arriva e mi dice che sta pensando di andare dagli sbirri, il giorno dopo viene trovato in un sacco nello stagno salato. Non abbiamo scelta. Se restiamo con Fontaine, finiamo sulla forca. Se ci sganciamo, finiamo come Sammy G. Deve esserci un altro modo. Siamo venuti tutti qua giù, pensando di far parte della grande catena di Ryan. Salta fuori che la catena di Ryan è d'oro, mentre le nostre sono di quelle con i ceppi per le caviglie e grosse palle d'acciaio. Lui sta lassù, a Fort Frolic, a sbattersi in modelle. E noi qua giù, in questa fogna, a mangiare budella di pesce. Fontaine promette qualcosa di meglio. È uno come noi, insomma, uno che si dà da fare. Dice di incontrarlo al suo impianto ittico alle 11. Ah, ci andrò con un paio di ragazzi. Tanto non ho niente da perdere. All'inizio è stato facile. Si portava il mini sottomarino di Fontaine di sopra due volte a settimana e si prendevano articoli di qualità introvabili per un posto sperduto come Rapture, tipo manzo, tabacco vero, solo piccoli extra. Ma adesso Ryan e i suoi hanno dichiarato il contrabbando punibile con la forca. La forca dice che qualunque contatto con la superficie potrebbe distruggere la città. Tra un po', l'unica differenza tra qui e di sopra starà nel fatto di potere o non potere aprire le finestre. Stiamo mettendo tutte le batisfere in isolamento fino a nuovo avviso. Ryan ci ha fatto installare sopra una specie di apparecchio genetico. Così solo lui e i suoi più stretti collaboratori saranno in grado di usarle senza deroga. I ragazzi mi hanno detto che le chiavi sono piuttosto inaffidabili. Sorelle, cugini, chiunque geneticamente legato sarà libero di andare e venire come gli pare. Impiccagione! A questo siamo arrivati! Beh, senti, non sono io a fare le leggi qui. Io le faccio solo rispettare. Ma non sono venuto a Rapture per appendere gente per semplice contrabbando. Ryan e i suoi possono tenersi le loro leggi, o tenersi il mio distintivo. Timmy, Mr. Ryan mi ha chiesto personalmente di chiarirtelo. Tu ci consegni Fontaine e il suo lurido giro e finirai a scolarti pinte su al Fighting Madonna. Ma se preferisci fare il testardo, ti tratteremo davvero come un mulo. Dagli un assaggio, Patrick. Che succede? Cambiato idea, Timmy? Timmy, ora sei pronto a parlare? Continua, Sullivan. Fai del tuo peggio. Qualunque cosa tu e Ryan pensate di farne, Fontaine mi può fare il doppio. Mi sto avvicinando al giro. Ti darei una pacca sulla spalla da solo. Ma diciamo la verità, quelli non sono esattamente dei banditi assetati di sangue. Rapture è piena di poeti, artisti e tennisti, non di tagliagole. Quel loro capo, quel Fontaine, sembra che sappia il fatto suo in materia di imbrogli. Si tiene pulito, ma non tanto da non far capire alle persone giuste che con lui non si scherza. Hanno prelevato Timmy H poco dopo mezzanotte. Ora non si fa più marcia indietro. O Ryan farà fuori Fontaine, o Fontaine farà fuori Ryan. Faremo un colloquio col povero Timmy sotto le Fontaine Fisheries. Se hai voglia di svago, il codice è 5380. Stamane, durante la passeggiata, ne ho incontrati un paio. Lui, un mastodonte in tenuta da palombaro puzzolente. E lei, una ragazzina lurida, con una sudicia camicetta rosa. Aveva un pallore verde e malsano, e c'era un aspetto spiacevole nel suo comportamento, come se fosse in un posto totalmente diverso da tutti noi. Capisco la necessità di tali creature. Vorrei solo che riuscissero a rendersi più presentabili. La pena di morte a Rapture. Il consiglio è in tumulto. Parlano di rivolte per le strade. Ma questo è il momento di mostrare i muscoli. Bisogna agire contro i contrabbandieri. Qualunque contatto con la superficie espone Rapture agli stessi parassiti da cui siamo fuggiti. Qualche impiccagione è un prezzo esiguo per i nostri ideali. Bisogna fare qualcosa con Fontaine. Mentre io compravo titoli di edilizia e pesca, lui schiacciava il mercato su genotipi e sequenze di nucleotidi. Rapture si sta trasformando sotto i miei occhi. La grande catena si allontana da me. Forse è il momento di darle uno strattone. Questo Fontaine va tenuto d'occhio. Un tempo era soltanto un pericolo da condannare e impiccare, ma riesce sempre a trovarsi lontano dalle prove. È un bandito del tipo più pericoloso. Un visionario. Diane, mia cara, mi dispiace, ma stasera farò tardi di nuovo. Rosenberg vuole parlare di questa storia di Fontaine. Sto cercando di creare un mercato finanziario come si deve. E questo idiota insiste ancora con Adam di qua e modifica genetica di là. Passerò un'ora fingendo di ascoltare quel poveraccio. E tornerò a casa appena possibile. Andrei. Sullivan, go on and do your dirty. Whatever Ryan thinks he can do to me, Fontaine can do double. Questa piccola lumaca di mare è arrivata e ha riunito tutte le idee folli che ho avuto fin dalla guerra. Non solo ripara le cellule danneggiate, le resuscita. Posso alterare la doppia elica. Il nero può rinascere bianco, l'alto basso, il debole forte. Ma le lumache da sole non bastano. Mi servono soldi e un'altra cosa. Visto che tutti i laboratori rispettabili mi hanno respinta, mi sono rivolta ai contrabbandieri di Fontaine a Port Neptune per i rifornimenti. Gli uomini di Fontaine sono dei porci. Sputano, puzzano da far schifo. Ma sono puntuali nelle consegne. E non fanno domande. Sono terrorizzati da Fontaine. Mi ricorda un po' il dottor Mengele. Non mi sorprenderei se tra un po' fosse lui a comandare qua giù. Oggi al porto ho visto uno dei contrabbandieri che giocava a palla. E questo mi ha sorpreso, perché le sue mani erano rimaste paralizzate durante la guerra. L'altro giorno stava scaricando la chiatta quando è stato morso da una lumaca di mare. Si è svegliato la mattina successiva e ha scoperto di poter muovere le dita per la prima volta da anni. Gli ho chiesto se avesse ancora la lumaca di mare. Per fortuna ce l'aveva. Hai fatto saltare una valvola lassù? Non riesco a vedere un accidente in quella cabina. Dammi un attimo e ti farò uscire. Moira! Tesoro! Riesci a sentirmi? Sto venendo a prendervi! Ricombinanti! Non posso permettere che te ne vada in giro nudo come un verme. Ti sto spedendo la mia arma personale, la troverai al più vicino tubo pneumatico. Un adulto che ha paura dei fantasmi. Fontaine è morto, e lo sanno tutti. È sottoterra da mesi, e mezza città sobbalza ancora a sentirlo nominare. Cristo, persino Ryan. Lascia perdere, abbiamo un lavoro da fare. Hai la macchina fotografica? Bene, credo sia ora di mettersi al lavoro per il vecchio PC. Scattagli qualche fotografia e leviamo le tende. Qua in vista, farò il possibile per aiutarti. Che è successo? Esci se ce la fai! Esci e ci ritroveremo! Esci! Esci subito e va all'Arcadia! Gesù Cristo! Qui ho portato mia moglie al nostro primo appuntamento. Direi che sono un pazzo a portare una donna di classe in una fogna come questa. Ma non conosci la mia moglie. Dalle una collana di perle e un vestito di seta e parlerà un valzer. Dalle una catapecchia in riva al mare e una bottiglia di rum e berrà come un pirata. Buone notizie. Sono riuscito a rintracciare uno dei teppisti di Peach. Nel caso non lo sapessi, aveva la tua pistola con sé. Te la sto mandando al più vicino tubo pneumatico. E con questa dovresti avere finito. Quando sei pronto, torna alle Fontaine Fisheries, per cortesia. Senti la mia famiglia nel sottomarino? Riesci a sentire qualche rumore? Ora hai goduto della piacevole compagnia di Andrew Ryan. È lui che ha costruito questo posto e che l'ha mandato in malora. Nessuno sa bene cos'è successo. Forse è impazzito, forse il potere l'ha sconvolto. Magari ha solamente deciso che non gli piaceva la gente. Comunque sia, sono morte delle brave persone. La mia famiglia è in un sottomarino nascosto nelle fondamenta delle Fontaine Fisheries. Ci vediamo lì. Usa l'interruttore su nella cabina di comando e fammi entrare. Credo sia ora di stringerci la mano e fare conoscenza. Sono dappertutto! Non ce la faccio, devo ripiegare! Tira fuori la mia famiglia e ci incontreremo appena possibile! L'idea di mia moglie e mio figlio nascosti in quel sudicio sottomarino mi fa ribollire il sangue. Aiutami a portarli in salvo e ti sarò debitore per la vita. Forse riesco a mandarti un robot, ma è tutto l'aiuto che posso fornirti. La macchina fotografica assomiglia a quelle che si vedono di sopra. Secondo questo articolo che mi sono procurato, può anche analizzare informazioni genetiche, esaminare strutture biologiche e un sacco di altri paroloni. L'attracco sottomarino veniva usato solo da contrabbandieri e ladri. È assai probabile che l'ingresso sia nascosto per tenere gli sbirri alla larga. Così si fa. Da lì dovrebbe essere una passeggiata. Ci vediamo più avanti. Un piccolo avvertimento prima di entrare nelle Fisheries. Il vecchio Peachy sembra onesto almeno quanto Giuda. Tieni gli occhi aperti. Il sottomarino! No! Se questo è il suo prezzo, allora dovrai pagare. Ma non può sottrarti i tuoi plasmidi, vero? Sono appena fuori dall'attracco sottomarino, ma non riesco ad entrare. Ho bisogno di te per farlo. Oh, Gesù, la mia famiglia sarà a meno di 100 metri da me adesso. Pare che il vecchio Peach sappia dove trovare una macchina fotografica. All'aria di uno a posto. Senza dubbio aspetterà che tu abbia sbrigato le sue faccende prima di piantarti una lama nella pancia. Amico, ecco un regalino per quella troia. Piazzaglielo in mezzo agli occhi! Le vuoi portare quelle foto al vecchio Peach? Ma stai ammirando il panorama. Nessuno entra in casa mia armato. Metti le tue armi nel tubo pneumatico e ti farò entrare. Nobody walks into my swampy carrying heat. Put your weapons on the conveyor belt and then I'll let you in. Ma guarda... Scommetto che quando il tuo capo è sgattaiolato via dall'inferno, ha detto al diavolo che sarebbe tornato subito. E quello ha detto, certo, Mr. Fontaine, le tengo il posto. Ryan ha giurato che Fontaine era polvere. Ed eccoti qui, a fare il suo sporco. Quindi Ryan è un ballista. E tu un... Ricorda, giovane amico, se ti sento addosso puzza di Fontaine, tu finisci in una cassa. Atlas ha garantito per te, ma io non giro lo sguardo solo perché lo dice lui. E affari sono affari. Ti ho mandato una sorpresa al jet postal. La troverai nel tubo pneumatico. Sei riuscito a salvarti le chiappe, eh? Hai qualcosa per me e la mia gente? O sei solo in cerca di insulti? Rilassati un po'. Intanto io metto su un caffè e magari tiro fuori l'argenteria e tutto il resto. Cadono come mosche quando li hai studiati per bene. Coraggio, vieni dentro e mostraci quelle belle fotografie. Bene, hai la macchina fotografica. Ora procurami delle belle fotine di quei ricombinanti ragno. E non tornare qui finché non avrai la mia ricerca. Tieni duro! Sto mandando qualcosa di tosto a guardarti le spalle. Fotografie? Mi servono quegli scatti sui ricombinanti. Non voglio più vederti qua dentro finché non te le procuri o sei ridotto a brandelli. Ora sbrigati! Atlas... mi ha detto che hai preso la macchina fotografica. Immagino che ora tu sia pronto per cimentarti nell'arte moderna. Bene, ecco l'accordo. Sto cercando di filare da qui, ma non ho speranze con tutta quella creatura nei bracci. Fammi una ricerca sui ricombinanti che sono là fuori e io ti lascio entrare nelle Fisheries. Con il tuo aiuto, entrambi potremmo avere una possibilità in più di uscire da qui. Dovevi scattare delle belle foto? Problemi là fuori? Vorrei aiutarti, ma insomma non sarebbe giusto se tu non ricambiassi il favore. Ti propongo un accordo. Tu mi trovi delle mine di prossimità pronte, me le mandi con la posta pneumatica del Jet Postal e io ti faccio felice con qualcosa in cambio. Atlas ha chiamato via radio. Dice che stai cercando un invito per le pescherie. Col cavolo, ho detto. Ma se vai all'ufficio del caposcalo e recuperi una macchina fotografica per il vecchio Peach, potrei concederti un invito. È troppo forte per te. Guarda sul nastro trasportatore. Ci troverai qualcosa per salvarti la ghirpa. Ora vai a prendere quella macchina e scatta delle foto a quelle che strisciano sul soffitto. E allora io ti farò entrare nelle Fisheries. Che cosa è stato? Amico, sei fottuto. È così buio qui. Se solo il tuo amico riuscisse ad alzare lo sguardo e vederti, forse potresti avvertirlo. Se solo tu potessi fare qualcosa, qualsiasi cosa, tranne che stare qui e guardarlo morire. Te la sei spassata, ma ora basta così. Se premi quel pulsante, imparerai cosa significa essere davvero mio nemico. Irrompi come un assassino e poi cerchi di sgattaiolare fuori come un ladro. Tu non sei un agente della CIA. Chi sei? Perché sei venuto qui? Ci sono due modi per trattare un mistero. Svelarlo o eliminarlo. Non puoi mollare. Fontaine ti troverà. Ah, si fotta Fontaine. Tu non fotti Fontaine. Fontaine fotti te. Tu non fotti Fontaine. Fontaine fotti te. Ah, si fotta Fontaine. Chi può biasimare una donna che ama variare? Ma i giorni passano come il vento. E un giorno gli uomini smisero di chiamare. Finché non resta altro che un lungo declino! La mia giovinezza, la mia rosa, la rivoglio, la rivoglio! If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer be kissed? begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? Cos'è che striscia nel mio giardino? Amico, ecco un regalino per quella troia. Piazzaglielo in mezzo agli occhi! Ora, ricordi quella tipa con gli uncini che hai appena spedito all'altro mondo? Beh, ce ne sono altre da dove è venuta. Di quelle che stanno appese ai soffitti, che lanciano bombe, eccetera. Se vuoi ucciderle, devi sapere come seccarle a dovere. E per far questo, le devi studiare. Now, I bet when your boss waggled out of hell, he done told the devil he'd be right back. And the devil said, "Sure thing, Mr. Fontaine, I'll hold you a spot." Ryan promised Fontaine was dust, and now here you are, doing his dirty. I guess that make Ryan a bum, and you... Ricorda, giovane amico, se ti sento addosso puzza di Fontaine, tu finisci in una cassa. Atlas ha garantito per te, ma io non giro lo sguardo solo perché lo dice lui. Cos'è questo attrito? Fair and fair. And deal's a deal. Something for you in the tube. This here'll get you into the 13th Muse. A contraption in there will sell film to a man for too rich a price. But paying swanks a sight better than pushing dirt. You're gonna get me the kerosene I need, not a damn drop less. And I wouldn't take no siestas or nothing. Best not be out in the swamp once all them big daddies get to riling. Sei riuscito a salvarti le chiappe, eh? Hai qualcosa per me e la mia gente? Oh, sei solo in cerca di insulti. Rilassati un po'. Intanto io metto su un caffè e magari tiro fuori l'argenteria e tutto il resto. Ehi, amico, concedimi un momento. Ah, non sei niente male quando si tratta di usare le maniere forti. Atlas ha chiamato via radio. Dice che stai cercando un invito. Al cavolo, ho detto! Le pescherie sono casa mia! Ma... credo che potrei fare un'eccezione, sempre se mi dimostri che te la meriti. Sali all'ufficio del caposcalo e faremo conoscenza durante il cammino. Atlas! Era nostro! Nostro! Tieni duro! Sto mandando qualcosa di tosto a guardarti le spalle! Fotografie! Mi servono quegli scatti sui ricombinanti! Non voglio più vederti qua dentro finché non te le procuri o sei ridotto a brandelli! Ora sbrigati! You out of film yet? Wouldn't throw me for a loop if you were. And I know for a fact there ain't no more round there for love nor money. I'd like to help you, but wouldn't be fair now if you didn't help old Peach on the flip side. How's this for a bargain? You find me some ready kerosene, drop it in the pneumo at the post office, and I warm you up with something cherry in the bargain. We all come down here. Figured we'd all be part of Ryan's great chain. Turns out Ryan's chain is made of gold, and ours? Well, they're the sort with the big iron ball around your ankle. He's up in Fort Frolic banging fashion models. We're down in this dump, yanking guts out of fish. Fontaine's promising something better. He's like one of us, you know? Like he's worked a day in his life. He says, meet him at this fish packing joint at 11. He says, meet him at his fish packing joint at 11. I'll go, bring a couple of guys. Hey, it's not like things could get a lot worse. This started out simple. Take Fontaine's mini sub back topside twice a week, pick up some choice goods not available in a remote place like Rapture, you know, beef, swing music, real tobacco, just a little extras. But now Ryan and his type have up and called smuggling a hanging crime. Hanging! For long, only difference between this place and topside is whether or not a fella can open the damn windows. È troppo forte per te. Guarda sul nastro trasportatore. Ci troverai qualcosa per salvarti la ghirpa. Ora vai a prendere quella macchina e scatta delle foto a quelle che strisciano sul soffitto. E allora io ti farò entrare nelle Fisheries. Che cosa è stato? Amico, sei fottuto!